Le BNT, ancora storie vere. Accendo e attendo, mi stendo, cerco un po' di intrattenimento, trovo solo cose che m'offendono. Dopo mezz'ora m'addormento, la testa pesante, troppe cose pensate, cose passate. Mi sveglio, le sbarbe impasticate, le sbandate, le macchine stampate, domande prestampate su come state, da far cagare in bilico tra quel che credo e quel che vedo. Gente dell'età di nostri nonni che mangia sui nostri corpi, dibattono sul numero dei morti. È un mondo che mente mentre affondi inesorabilmente. Io con lui cambio canale ma non cambia niente, sempre la stessa storia, sempre la stessa gente. E io che mi sento così impotente, un'altra troia in cerca di gloria, e poi mi vieni a dire che non credi in niente. Forse è vero, ma forse la mia età dovrei essere più sereno e stare meno in sclero. Le forze sono a zero, forse che davanti a mille cose già viste sto a cercare una chiave che non esiste. La testa pesante, proprio nell'istante in cui un esperto dalla parte dei buoni spiega che sono animali anche gli uomini. Ma io non sto capendo, mi arrendo, mi stendo e spengo. Lo schifo mi assale, lo dico, ho bisogno di un amico invece di qualcuno che mi punti il dito. Ma nessuno lo ha capito, è meglio andare a letto che vivere col sospetto di essere sia l'uomo nel mirino che quello col grilletto. Così tante parole, così poco rispetto, a volte ho l'impressione che tutto il mondo finga se tutti parlano ma nessuno parla la mia lingua. La sveglia, la poca voglia, la corsa, la coda, pubblicità di moda, la toppa, il clacson, i taxi, le bici che assorbono i gas dei Ducato Maxi, il ritardo, la spifferata del collega bastardo, la rabbia, la foga, stordisce come droga, che mando giù pensando a chi mi paga, rincaso, la coda, nessuno che si caga, un'ora fianco a fianco non vale tanto, mangio in fretta, mia madre che mi osserva zitta, da solo questo gesto già mi scoccia, veloce nella doccia e sono già in azione, scarpe comprate con la mia liquidazione. Esco, la fotta, la botta, lo stereo a manetta, la mia balotta che m'aspetta, arrivo macellare che scotta, le solite cazzate, trovate da dire per due sbarbate. Ma partono le sedie, i vetri di birre medie, i versi, la lotta, rientro in ambulanza con la testa rotta, furia due mesi dopo a cercare il figlio di mignotta, ancora lotta, la fotta, stavolta ce n'è troppa, qualcosa scoppia, vedo solo la fiammata ed è già passata, al pianto della fidanzata, ai giornali gioventù bruciata, all'asti posti nel talk show in prima serata. Lo schifo mi assale, lo dico, ho bisogno di un amico invece di qualcuno che mi punti il dito. Ma nessuno lo ha capito, gli esperti fanno presto sui libri di testo, i parenti hanno un pretesto dicendomi di essere onesto, in TV riempiono il cesto di qualsiasi cosa, anche loro fanno presto, si sprecano teorie sul perché abbia fatto questo, ma come stavo nessuno me l'ha mai chiesto e nessuno l'ho mai capito e non lo capirete neanche adesso. I giovani sono fragili ma voi non li capite, non li cercate. Voi li fate, li lasciate senza ali, li studiate, li condannate e scrivete i loro nomi sui giornali e sulle loro lapidi. Oh, l'ho detto. Verità, verità. Ci vuole più verità in questa vita. Troppe menzogne. Thank you.